avez utilisé les concepts freudiens pour penser Freud, j'ai dit effectivement que Freud avait élaboré des concepts qui étaient extrêmement performants pour le comprendre lui-même, mais pas du tout performants pour comprendre autrui. Je pense que l'inconscient freudien, c'est l'inconscient de Freud, et que la psychanalyse est extrêmement efficace pour comprendre Freud, mais pas au-delà. Buonasera, intanto grazie a voi di essere venuti qui questa sera. Effettivamente questo libro che ho scritto con tanta enfasi è un libro che si basa, come dire, su una lettura nicciana dell'opera di Freud. Perché dico questo? Perché mi sono basato per scriverlo sullo studio della sua opera, delle corrispondenze, delle sue biografie. Non mi sono limitato a redigere una sorta, come dire, di racconto religioso, di catechismo psicologico, basandomi sulla raccolta di una quindicina, una ventina di testi di questo autore. No, ho fatto una vera e propria lettura alla Sartre, se possiamo dire così, cercando di creare un parallelismo tra la vita di Freud e la sua opera, per quindi riuscire a capire cosa ne è stato. E cosa ho capito da tutto questo lavoro? Ho capito che la psicanalisi di Freud non è una scienza, è più che altro una disciplina letteraria, la definirei così, senza dubbio con il suo interesse, ma sicuramente non basata su presupposti scientifici, e questo non basta per fare della psicanalisi qualcosa di universalmente riconosciuto. Sicuramente questo non basta per fare della psicanalisi un percorso terapeutico, e sicuramente questo percorso terapeutico non è efficace, perché la psicanalisi di Freud non è efficace. Freud ha costruito il suo mondo, ha costruito il tutto attraverso delle credenze che sono state poi sostenute dai suoi discepoli, da coloro che hanno scritto le sue biografie, che io definirei agiografi addirittura, come Jones. E quindi effettivamente sì, come diceva lei, una lettura nicciana è quella che io propongo in modo principale, proprio per spiegare quali sono i concetti che sono stati utilizzati da Freud, concetti che però potevano essere molto utili per capire lui, per capire la persona di Freud, ma che sicuramente non possono essere utili ed adottati per comprendere il funzionamento dell'inconscio terzo del mondo. Prima di venire alla questione del metodo scientifico, perché questo è uno dei nodi attorno a cui lei articola poi la sua tesi, secondo cui la psicanalisi non è una scienza, vorrei tornare su i due grandi livelli attraverso cui si sviluppa la sua decostruzione nicciana dell'idolo o del mito psicanalitico. Cioè, idealmente questo libro, perché le due parti siano intrecciate, si divide tra una decostruzione del mito Freud, l'autocostruzione di questo padre della psicanalisi, e dall'altra la decostruzione di un metodo di investigazione e al contempo di un metodo terapeutico. Restando sulla prima parte, che cosa il suo libro aggiunge rispetto ad altri che avevano già sottolineato come questa costruzione del mito di Freud, penso al libro nero della psicanalisi, ma anche ad altre inchieste biografiche al di fuori del recinto agiografico, rispetto a una ricostruzione realistica e in qualche modo che mostra i lati di quest'uomo non come scienziato, ma come conquistatore, come un soggetto che falsifica le carte nel momento in cui deve presentare i risultati delle sue analisi, attento alle dinamiche interne della propria chiesa, tra virgolette, così la definisce lei. Ecco, che cosa aggiunge questa sua decostruzione rispetto a quello che in parte era già stato fatto? Alors, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une lecture nietzschéenne, ce qui n'a jamais été fait. Donc, effectivement, j'ai fait un travail personnel et subjectif de philosophe sur des lectures qui ont été faites, et de fait, j'ai rendu hommage aux historiens de la philosophie, donc il y a effectivement un certain nombre de choses qui ont été découvertes par Bård Jacobsen, par Cottreau, par Van Reller, par les auteurs du livre noir de la psychanalyse, par Catherine Meyer, auxquels j'ai rendu hommage, en faisant savoir que ma proposition, elle était, sur le principe de Sartre, une psychanalyse existentielle de la totalité du personnage, c'est-à-dire de la naissance jusqu'à la fabrication du mythe, en passant par des choses qu'on a assez peu dites sur les engagements politiques de Freud. C'est-à-dire qu'il y a une bibliothèque considérable sur Freud, le freudisme et la psychanalyse, et pas grand-chose, pour ne pas dire même quasi rien, sur la question de la politique de Freud. Cette idée que, par exemple, Freud serait un libérateur, qui aurait libéré la sexualité, par exemple, simplement parce qu'on confond le Freud et le freudisme et le freudomarxisme des années 68, est une idée que je bats en brèche à partir d'un certain nombre d'informations qui montrent que, sur le terrain, et d'un point de vue de la doctrine, Freud était du côté de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, une citation extrêmement élogieuse à l'endroit de Mussolini, d'un livre qui n'est pas neutre, puisque Freud choisit « Pourquoi la guerre ?». Il y a des soutiens au chancelier Dollfuss, qui est l'inventeur de l'austrofascisme. Il y a un travail extrêmement intime, et relativement secret, puisque ce sont des correspondances qui en rendent compte, avec Félix Böhm, qui deviendra le grand représentant de l'Institut Göring, et qui permet à Freud, sous régime national-socialiste, c'est-à-dire après 1933, de travailler à l'éviction des bolcheviques, des marxistes, dans l'Association internationale de psychanalyse. Donc il y a effectivement un engagement politique pratique, et puis un engagement politique théorique. Je m'arrête pour la traduction, et je dirai deux mots sur l'engagement théorique tout à l'heure. Beh, come abbiamo detto prima, effettivamente quello che io propongo è una lettura nicciana del personaggio, una lettura alla Nietzsche. Io mi sono basato per i miei lavori su quello che ho studiato personalmente, quindi sono una lettura personale e soggettiva, ma anche sicuramente su molti lavori portati avanti da grandi storici della filosofia, come Quattro, come Lameyer e come moltissimi altri a cui rendo omaggio nei miei lavori. Quindi la mia proposta, effettivamente, come abbiamo detto prima, è quella di analizzare l'aspetto esistenziale forse di questa psicologia, di tutto questo personaggio che è nato, come che si è voluto proporre come un mito, come anche un politico, perché ci sono moltissimi documenti che parlano del freudismo in quanto materia tra virgolette scientifica, ma c'è pochissimo per quanto riguarda il personaggio Freud politico. Un'altra cosa che mi viene in mente, ad esempio, l'idea si è fatta strada secondo cui Freud era un gran liberatore della sessualità, ad esempio, idea assolutamente falsa, e questo io lo dico basandomi su delle informazioni dal punto di vista appunto concreto e dottrinario. Lui non lo era, anzi, era un personaggio che sposava di più, direi, delle correnti di estrema destra. Mi riferisco a una frase di elogio a Mussolini che è stata ritrovata nella prima pagina di un libro, peraltro non un libro anonimo, un libro il cui titolo era Perché la guerra, oppure il sostegno dato a Dollfuss, oppure anche le lettere che sono state ritrovate tra Freud e Felix Baum, che ricordo era il responsabile dell'Istituto Göring, che grazie a lui, infatti, a partire dal 1933 Freud ha potuto operare in questo campo. Quindi ecco, cerco di dimostrare che c'era un impegno anche politico di questo personaggio, dal punto di vista pratico sì, ma anche dal punto di vista teorico, e ora vi spiego perché. E teoricamente je mets en perspective également les fantasmes de Freud concernant le complexe d'Édipe. Pour information, Freud nous fait savoir qu'il a pratiqué une auto-analyse extrêmement longue, extrêmement douloureuse, extrêmement peut-être problématique, au cours de laquelle il a découvert la vérité du complexe d'Édipe. Ça, c'est la doctrine telle qu'elle est présentée. Si on lit la correspondance avec Fliss, on voit que les choses ne se sont pas passées du tout comme ça, et que Freud est franchement dans le performatif, c'est-à-dire qu'il vous dit quelque chose à partir du moment où il le dit. Ça devient vérité universelle. Il me fait savoir que dans un voyage en train, de nuit, avec sa mère, alors qu'il a 4 ou 5 ans, il n'a pas pu ne pas voir sa mère nue. Que n'ayant pas pu n'avoir pas vu sa mère nue, on est dans les doubles négations, il l'a sexuellement désirée. Et que c'est une vérité universelle, parce que tous les petits garçons, nous dit-il, désirent sexuellement leur mère et désirent en finir avec leur propre père. Ce complexe d'Édipe démarre une vision du monde totale et déterminante de la pensée de Freud en général et en particulier de sa pensée politique. Je vais vous préciser comment. Dal punto di vista teorico, dicevo quindi. vanno presi in esame i fantasmi di Freud in primo luogo per spiegare il famoso complesso di Edipo. Freud ci dice, tra parentesi, che lui ha compiuto su di sé una profonda autoanalisi molto lunga e molto dolorosa che l'ha portato a scoprire proprio la verità di questo complesso di Edipo che lui applica come dottrina al mondo intero. Peraltro poi se leggiamo la corrispondenza con Fliss vediamo che le cose non stavano assolutamente così come lui diceva, perché Freud ha fatto quello che io definisco un percorso performativo, ovvero il semplice fatto per lui di dire una cosa equivaleva a dire una verità universale. Racconta infatti in queste lettere che quando era piccolino, durante un viaggio in treno che faceva con la mamma, aveva intorno ai 4-5 anni, non poteva non aver visto la madre nuda e di conseguenza, non potendo non aver visto la madre nuda, l'aveva desiderata, quindi usando qui una doppia negazione. E questo poi per lui è diventato una verità universale, quindi secondo lui tutti i bambini del mondo hanno desiderato la mamma e tutti i bambini del mondo hanno desiderato la morte del proprio padre. Questo naturalmente lo porta ad avere questa visione a livello universale del mondo e degli esseri umani, ma lo influenzerà moltissimo anche dal punto di vista del suo pensiero politico. Freud fait savoir, ensuite, à partir de cette fameuse découverte de l'inconscient, qu'à l'origine, il y a eu une horde primitive, le chef de la horde primitive, le père, qui possédait les femelles et qui interdisait aux enfants d'accéder aux femmes. Il nous fait savoir que les enfants ont un jour tué le père et que le meurtre du père, suivi du banquet cannibal, a été à l'origine de la naissance de la loi. À partir de ça, il nous dit politiquement, et là je renvoie à Psychologie des masses et analyse du moi, texte de Freud, vous trouverez tout ça, il nous dit qu'il faut penser la politique sur le principe de la horde primitive et du chef de la horde primitive. Il nous dit que la pulsion de mort est active dans le peuple et que pour interdire les effets négatifs de cette pulsion de mort, il faut un chef, c'est-à-dire un dictateur, qui soit susceptible de conduire les masses et les foules. C'est-à-dire que la pensée de Freud, sa pensée littéraire, personnelle, autobiographique, à partir d'Édipe, débouche sur une conception des choses totalitaire. Il faut un chef. Et il faut une masse guidée par ce chef. Donc effectivement, quand on met en perspective cette théorie et puis cette pratique, enfin la pratique qui fait soutenir les dictateurs du moment, et puis cette théorie du chef nécessaire pour conduire l'ordre et la masse, tout ça peut donner l'impression effectivement d'avoir dit des choses qui n'ont jamais été dites. Et puis j'ajouterai une petite chose pour éviter que vous n'ayez qu'une question à poser, mais une petite chose pour montrer que je pense avoir dit des choses originales aussi sur la question de la psychanalyse comme la création d'un intellectuel collectif. È nata quindi così l'idea dell'inconscio. L'idea dell'inconscio che si basa su un concetto fondamentale per Freud, ovvero il concetto dell'orda primordiale. Che cos'è l'orda primordiale? Innanzitutto c'è un padre, in quest'orda primordiale c'è il padre che possiede le donne e che a sua volta impedisce ai bambini di possedere queste donne, di avere queste donne. Cosa fanno quindi i bambini, ovvero i figli di questo padre primordiale? Lo uccidono e lo cannibalizzano. Da questo principio nasce quello che per Freud è la legge. Come politicamente ritroviamo tutto questo? Ebbene, politicamente in realtà lo ritroviamo questo concetto quando vediamo che il suo pensiero politico si basa proprio su questo principio dell'orda primordiale, ovvero Freud dice che esiste una pulsione di morte nelle persone, che quindi nelle masse, che quindi ci deve essere un capo, ci deve essere un leader che guida queste masse, che convoglia questa pulsione di morte, e quindi da qui il pensiero della necessità del dittatore per gestire le folle. In questo senso dico che il pensiero di Freud, basato sul complesso di Edipo e basato su questo concetto di orda primordiale, lo conduce a sostenere il totalitarismo in quanto tale. Perché appunto ripete ed è convinto del fatto che sia necessario che ci sia un capo, un leader, un dittatore, se posso dire così, per manovrare, per gestire le folle, e questo è l'aspetto pratico della sua convinzione. E dal punto di vista teorico, appunto, ho spiegato da dove trae queste convinzioni. Ecco, tutte le cose che io ho detto penso che almeno da questo punto di vista possano effettivamente essere considerate più originali. plus quelques mots, je vais être rapide sur ce sujet-là. Je pense que les défenseurs de Freud et les accusateurs de Freud sont tous d'accord pour dire que Freud a inventé la psychanalyse. Et quelque chose que je dis et qui me semble ne pas être dit ailleurs, c'est que je fais de la psychanalyse une invention collective. C'est un intellectuel collectif qui invente la psychanalyse. Et Freud, d'ailleurs, le dit lui-même en 1908, il dit « Je n'ai pas inventé la psychanalyse, l'inventeur de la psychanalyse s'appelle Joseph Breuer. » Il existe un moment où Freud fait savoir que, finalement, c'est lui l'inventeur, qu'il regrette d'avoir dit que Breuer était l'inventeur de la psychanalyse, et que la psychanalyse, maintenant, ça devrait être son invention. Alors qu'il y a un nombre considérable de gens talentueux, Adler, Jung, Ferenczi et tant d'autres, et Reich, qui sont des gens qui ont contribué à la naissance de la psychanalyse, et je tâche de montrer que Freud fait une espèce de coup d'État sur la psychanalyse pour laisser croire qu'il est le seul inventeur de la psychanalyse et que les autres se sont tous trompés, alors qu'il y a un visage multiple à la psychanalyse, que l'idée d'un visage unique a été imposée par Freud. Et même les adversaires de Freud aujourd'hui souscrivent à cette légende. Peraltro, i sostenitori di Freud, così come i suoi oppositori, concordano nel dire che Freud è stato colui che ha inventato la psicanalisi. Io però non la vedo così. A mio parere la psicanalisi è un'invenzione collettiva. Lo stesso Freud nel 1908 ammette che non è stato lui a inventare la psicanalisi, ma è stato Joseph Breuer, cosa che poi rinnegherà perché dirà che no, che invece non è stato così, che è stato lui l'unico e il solo inventore della psicanalisi. Ritengo invece che ci siano stati molti altri che abbiano contribuito alla nascita della psicanalisi, come Adler, Jung, Reich e una serie di altre persone. Quindi quello che Freud ha fatto, secondo me, è stato un vero e proprio colpo di Stato per far sì che la gente arrivasse a credere che la psicanalisi è stata una sua invenzione. Ecco, questo quindi è l'aspetto critico che io solleverei con maggiore enfasi. Grazie. Adesso io provo a fare un po' la parte dell'avvocato del diavolo, per usare proprio una formula che Freud usa in Al di là del principio di piacere. Il nodo a cui facevo riferimento prima, che secondo me forse è il più problematico e su cui credo varrebbe la pena discutere, è quello che vede un'opposizione netta da un lato della scienza come modo di procedere attraverso ipotesi che vengono verificate e dall'altra quella della psicanalisi come una formula, lei non parlerebbe di scienza ma di mito, di religione, di sciamanismo o altro, che non può verificare ciò che dice, cioè fa delle ipotesi e poi performativamente, usa questo concetto filosofico preso da Austin, da come fare cose con le parole, potrebbe essere anche una delle definizioni della psicanalisi, la psicanalisi crea la propria teoria e non si pone il problema della verifica. Una delle questioni che vorrei porle è se questo modello di scientificità, lo cito per non essere preciso, Freud si comporta in modo opposto agli scienziati, i quali avanzano un'ipotesi e cercano di verificarla moltiplicando le sperimentazioni. Se questo modello di scientificità sia l'unico o non sia uno tra i tanti. Penso alla critica che Popper faceva a Freud. Popper non avrebbe criticato, infatti non ha criticato Freud perché le sue teorie non erano verificabili, ma dicendo che la psicanalisi non è falsificabile. Vale a dire, se abbandoniamo l'idea che la scienza sia ancora qualcosa che ipotizza delle teorie e poi le verifica, e invece ipotizza delle teorie che sono vere fino a quando non sono falsificate, ben allora già cambieremo campo. Uno psicanalista potrebbe dire, proprio per il fatto che Freud ha cambiato spesso la sua teoria, con questa ipotizza che la psicanalisi introietta il principio di falsificazione, altrimenti avrebbe costruito il suo sistema e poi l'avrebbe chiuso. Se rilancio ancora, sono proprio un avvocato diabolico allora a questo punto, potrei citare Kuhn, filosofo della scienza che ha scritto La struttura delle rivoluzioni scientifiche, dove ci dice una rivoluzione scientifica è la costruzione di un nuovo paradigma. E il vecchio paradigma scientifico dirà che questa nuova costruzione non è verificabile secondo i suoi propri criteri, perché quel paradigma va a costruire nuovi criteri. la psicanalisi in parte fa anche questo. Le chiedo se in qualche modo c'è una possibilità di riconoscimento di uno statuto non semplicemente fittizio o letterario di una psicanalisi se applichiamo altri modelli epistemologici, popperiani, quiniani. Non cito Feyerabend perché allora lì sarebbe più facile, perché Feyerabend è un filosofo della scienza e dice qualsiasi cosa va bene. Quindi, però ecco, siamo già in un campo molto pericoloso. Però restando a Popper o a Kuhn, come risponderete? Moi, je parle de la pensée de Freud lui-même qui nous dit, lui, qu'il est un scientifique. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. C'est-à-dire que lui dit, en 1907, alors qu'il a envie d'avoir le prix Nobel depuis un certain temps et qu'il n'obtient pas ce prix Nobel, il écrit un texte dans lequel il nous dit qu'il y a eu trois grandes blessures narcissiques infligées à l'humanité. Il parle de Copernic, il parle de Darwin et il parle de lui-même. Et il nous dit, Copernic, parce qu'il a fait savoir que le géocentrisme était une fiction et que la vérité c'était l'héliocentrisme, donc blessure narcissique à partir de l'astronomie, l'homme n'est pas au centre du monde, blessure de Darwin qui nous fait savoir en 1859 avec l'origine des espèces que l'homme procède d'un certain type de singe, descendu singe pour aller vite, donc qu'il n'est pas un produit de la création divine, mais qu'il y a une différence de nature entre l'homme et l'animal, mais sûrement pas une différence de degré. Et Freud qui lui dit, troisième blessure que le narcissique infligée à l'humanité, que j'inflige à l'humanité, après Copernic, qui est un scientifique, astronomie, après Darwin, qui est un scientifique, science naturelle, moi-même qui suis un scientifique, Freud, la psychologie, blessure narcissique, je fais savoir que le moi n'est pas chez lui, qu'il y a dans le moi un inconscient, et que la vérité de chacun n'est pas dans son conscient, mais dans son inconscient. C'est donc Freud qui revendique la science. C'est pas moi qui l'attaque sur ce sujet-là en disant « il n'est pas scientifique ». Je dis « Freud nous dit qu'il est scientifique alors qu'il ne l'est pas ». Je vais fractionner ma réponse. In realtà non sono io che lo dico, è Freud stesso che si dice scienziato. Nel 1907, quando anelava il Nobel già da molto tempo, peraltro, scrive un testo nel quale parla delle tre ferite narcisistiche che sono state imposte all'umanità, quella di Copernico, quella di Darwin e quella sua, quella di Freud stesso. La prima, quella di Copernico, che scopre che l'uomo non è il centro del mondo, quindi il geocentrismo contro l'eliocentrismo. La seconda, quella di Darwin, che scopre, tra virgolette, che l'uomo discende dalla scimmia e non, quindi, che non è un prodotto del creato, un prodotto divino. Quindi sì, dice che c'è una differenza di natura tra l'uomo e l'animale, ma non a livelli di grado, non a livello, insomma, non nei livelli di questa differenza. E poi la terza, ferita narcisista, dice lui, è la mia, quella legata alla psicologia, perché io sono scienziato come gli altri due, dice Freud, e quindi il fatto che io abbia mostrato che esiste un inconscio, che la verità dell'io non sta nel conscio, a livello conscio, ma nell'inconscio. Questa è la sua ferita narcisista, proprio perché lui stesso, ripeto, si definisce come scienziato e si mette alla stregua degli altri due. Il y a quelque chose d'important chez Freud également, c'est qu'il nous dit qu'il n'est pas un philosophe. Il manifeste une haine absolue à l'endroit des philosophes. J'utilise vraiment le mot à dessein, c'est vraiment de la haine. Et il nous fait savoir que les philosophes sont des producteurs de visions du monde qui sont justement dans le théorétique, dans la théorie pure, qui sont dans le performatif et qui n'ont aucun souci de la clinique, au contraire de lui. C'est-à-dire que la science, pour lui, procède de l'observation. Et Freud nous dit, je ne pars pas de moi-même, je pars de l'observation. Et je pars de la clinique. Je ne suis pas un philosophe parce que je procède de manière analytique, sur le divan, dans la clinique. J'écoute les patients, je procède de manière empirique. Et à partir de l'empirisme, j'obtiens des conclusions qui sont universelles. Ça, c'est le discours tel qu'il nous est présenté. La réalité, justement, il faut croiser la biographie, il faut croiser les correspondances, c'est que Freud s'est rarement appuyé sur la clinique, qu'il a inventé des cliniques, qu'il a inventé des cas qui n'ont jamais existé, qu'il a fait se rapprocher des cas divers et multiples pour fabriquer des fictions, des mythes. Il parle d'ailleurs de mythes scientifiques, c'est une expression de Freud, mythes scientifiques. Et effectivement, il revendique la science, il n'est pas dans la science, et il nous fait savoir que tout ce qu'il nous dit est scientifique, puisqu'il y a de la clinique derrière tout ça, et il considère que toucher à ces prétendues vérités scientifiques, ça suppose qu'on se trompe, qu'on est malade, on criminalise toute pensée critique à l'endroit de la psychanalyse. D'un point de vue épistémologique, c'est la pure interdiction de ne pas être d'accord avec soi. C'est la pure interdiction de l'art de discuter l'épistémologie freudienne. Interdiction de faire de l'épistémologie freudienne chez quelqu'un qui nous dit pourtant qu'il est un scientifique, alors que le propre du scientifique, c'est d'accepter l'épistémologie, c'est d'accepter qu'on puisse disserter sur les conditions de possibilité d'accès à des choses qui sont présentées comme des vérités. Un altro elemento importante. Abbiamo detto che Freud si definisce come uno scienziato e allo stesso modo Freud non si definisce come filosofo, anzi nutre un vero e proprio odio per i filosofi e utilizzo questo termine proprio nel modo più schietto, appunto. Un odio verso i filosofi. Egli stesso dice che i filosofi in realtà sono dei produttori di una visione del mondo, sono dei personaggi che si basano sulle teorie e sul linguaggio performativo, cosa che peraltro poi farà anche lui. Lui invece dice che non è filosofo proprio perché basa il suo pensiero sulla clinica, sulla scienza, sull'osservazione di quello, dei suoi pazienti. In realtà però sappiamo che non è così. Lui dice appunto che non è filosofo perché lui tratta i suoi pazienti sul lettino, li ascolta, quindi dà una base empirica alle sue, ai suoi atti, a quello che fa, e questo fa sì che riesca, secondo lui, ad arrivare a delle conclusioni universali. Ma qual è la verità? Lo abbiamo detto prima. La verità è che Freud si basa pochissimo sulla clinica. Freud è un personaggio che ha inventato casi, che ha cercato di avvicinare dei casi gli uni agli altri per trovare una sua logica. È stato un produttore di fiction, oserei dire, è stato un produttore di miti scientifici, lui stesso utilizza questa espressione. Quindi sicuramente non è una persona che si è basata sulla clinica per stilare la sua teoria. È una persona che invece è riuscita in questo modo a disegnare la sua verità, e qualunque persona abbia osato, tra virgolette, opporsi a questa sua verità, tra virgolette, scientifica, veniva accusato di voler criminalizzare la psicanalisi. Quindi veniva accusato di opporsi a questo mito. Nessuno poteva non essere d'accordo con lui, nessuno poteva discutere, nessuno poteva aprire un dialogo con questo tipo di approccio. Faccio ancora due domande e poi lasciamo la parola al pubblico per poter intervenire. Dopo aver decostruito Freud come mito e la psicanalisi come metodo terapeutico, resta una sorta di spazio forse che può salvarsi della psicanalisi. Vale a dire, la psicanalisi è anche un metodo di investigazione del reale, un metodo che può eccedere l'ambito della clinica. Soprattutto penso a certa filosofia contemporanea che oggi usa la psicanalisi o alcuni concetti della psicanalisi per interrogare lo spazio politico. Penso a un filosofo come Žižek che utilizza a suo modo Lacan per interrogare lo spazio politico internazionale, senza che questo abbia nulla a che fare con la clinica. Ma pensando alla nostra situazione italiana, e senza nominare colui che è proprio qui vicino, alcune categorie psicanalitiche per interrogare ciò che accade in una dimensione del politico credo che possano avere un aspetto interessante da non essere senza esorcizzarle immediatamente. Pensa che ci sia ancora una possibilità di utilizzo filosofico di queste categorie fuori dall'ambito clinico o no? Le cas de Žižek est assez particulier, je dirais, c'est une espèce d'interprétation libre de Lacan, qui est déjà une interprétation libre de Freud, et qui permet beaucoup de délire. Je pense qu'on a exactement la même chose chez Alain Badiou, qui sont des penseurs d'arrière-garde. Pour moi, ce sont vraiment des penseurs d'arrière-garde, c'est vraiment la pensée du siècle dernier. Cette idée que nous pourrions encore utiliser ces catégories et qu'elles seraient indépassables, va de pair, en plus de ça, avec épistémologiquement une façon de considérer Marx exactement de la même manière. Des gens qui sont dans des perspectives totalement platoniciennes, et ce sont des gens qui ne récusent pas d'ailleurs le platonisme, et qui considèrent par exemple que le communisme c'est d'abord une belle idée, et que la réalité du communisme n'a rien à voir avec la réalité du communisme. C'est-à-dire que par exemple, les millions de morts de l'Union soviétique et des pays de l'Est, ça n'entame en rien la belle idée du communisme. Donc je pense que s'il y a des gens aujourd'hui qui se servent encore de Freud via Lacan, c'est parce que ça a été une discipline littéraire, une discipline philosophique, pas du tout une discipline clinique. C'est-à-dire que dès que un certain nombre de psychanalystes ont quitté Vienne pour aller aux États-Unis et qu'ils ont eu, eux, le souci de la clinique, on s'est aperçu, je songe à Eric Fromm, par exemple, on s'est aperçu qu'effectivement, toute la construction littéraire, toute la construction mythologique, toute la construction conceptuelle extrêmement séduisante pour les philosophes idéalistes, platoniciens, jusqu'à Badiou, jusqu'à Zizek, tous ces gens qui procèdent de l'école normale supérieure et qui pensent en matière de philosophie avec des concepts et qui n'ont le souci que du concept, sont des gens qui, bien sûr, considèrent que Freud est indépassable, que Marx est indépassable, que Lacan est indépassable, et qu'il a fourni des outils qui sont extrêmement utiles pour penser aujourd'hui. Moi, je ne pense pas que des gens qui ont fabriqué des outils pour penser avant-hier soient encore efficaces pour penser les outils de demain. Et si vraiment on veut être d'avant-garde, il n'y a pas de raison aujourd'hui d'aller chercher des auteurs d'arrière-garde, pas plus qu'en matière d'esthétique. La vérité de la subversion ne se trouve chez Duchamp, qui est déjà à plus d'un siècle. Donc je pense que c'est assez singulier de voir que, justement, des gens comme Badiou ont fait cause commune avec Bernard-Henri Lévy en France pour m'attaquer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une affaire de génération. Et c'est une génération qui ne veut pas dire son nom, parce qu'elle n'a pas envie de laisser la place à une autre génération. Mais tous ceux qui pensent que Lacan est indépassable pour penser une modernité impensable avec les concepts de Lacan, sont des gens qui défendent un territoire qui est le territoire microscopique des philosophes qui font de la philosophie pour les philosophes. Moi, j'ai le souci de faire de la philosophie pour le plus grand nombre, dans la grande perspective de la philosophie antique, et en ce sens, je pense qu'on peut vraiment économiser Lacan et Freud pour penser la politique aujourd'hui. Secondo me questa è un'idea un po' delirante, ovvero l'interpretazione di Lacan, l'interpretazione di Freud attraverso l'interpretazione di Lacan, come hanno pensato taluni pensatori, come Badiou ad esempio, secondo me è un pensiero retrogrado, è una retroguardia questa. Ma perché continuare ad utilizzare delle idee, degli strumenti del passato per una realtà che è completamente diversa? È come coloro che continuano a portare avanti delle idee di Marx, allo stesso modo di questa prospettiva platonica che taluni utilizzano, che li spinge a dire, ad esempio, che il comunismo è ancora un'idea meravigliosa, nonostante la realtà del comunismo, che in realtà non c'entra nulla con l'idea del comunismo, nonostante i milioni di morti che ci sono stati nell'Unione Sovietica o nei paesi dell'Est, comunque per taluni l'idea del comunismo rimane una cosa meravigliosa. Ecco, utilizzare Freud attraverso Lacan per portare avanti un'idea che potesse essere applicata alla nostra realtà di oggi, a mio parere, è una cosa che non può funzionare. Non per nulla, peraltro, taluni psicanalisti che hanno lasciato l'Europa, mi viene in mente Fromm in questo momento, per andare ad esempio negli Stati Uniti, hanno adottato delle posizioni completamente diverse, allontanandosi dalla costruzione di questa psicanalisi, come la definisco io, mitologica o letteraria. E anche qui ripenso a Badiou, a Žižek, che hanno continuato a sostenere Freud, Marx, Lacan, i loro strumenti che poi, appunto, ripeto, vorrebbero essere ritirati fuori e utilizzati per gestire la nostra realtà moderna. Ma non può funzionare, perché gli strumenti di ieri andavano bene per la realtà di ieri, quelli di oggi per la realtà di oggi. Quindi non guardiamo indietro, guardiamo avanti se vogliamo trovare delle soluzioni ai nostri problemi. Mi fa strano pensare, ad esempio, che sempre per riprendere Badiou, un personaggio come lui si sia alleato a Henri Lévy per attaccarmi personalmente in Francia. Quindi forse qui ci vedo magari un problema generazionale, un problema di questa generazione che, tra virgolette, non vuole mollare, che vuole continuare a difendere il suo piccolo territorio, che vuole continuare a perpetrare questa usanza secondo cui i filosofi lavorano nel loro ambito ristretto per i filosofi. Io invece credo che il filosofo debba lavorare in generale per tutti. Un'ultima domanda secca rispetto anche a un testo che è uscito in Francia ma non in Italia. C'è una psicanalisi post-freudiana secondo Michel Onfray? Oui, j'ai fait un livre qui s'appelle Apostille au crépuscule, dans lequel je reprends cette idée que la psychanalyse est un intellectuel collectif, procède d'un intellectuel collectif. J'invite à ce qu'on relise tous ceux dont Freud nous a dit qu'ils étaient sans intérêt, nuls et non avenus, Adler, Jung, Reich, et plein d'autres, Ferenczi, je pense qu'il faut aller voir de ce côté-là, mais il faut aussi aller voir du côté de ce que la philosophie a pu dire sur ce terrain-là, et je songe à la psychanalyse existentielle de Sartre. Il y a un beau chapitre de Lettres néant sur ce sujet-là, il y a des ouvrages de psychanalyse existentielle concrète qui ont été consacrés à Genet, à Mallarmé, à Baudelaire, à Flaubert. Et je pense qu'il faut aller voir du côté de Politzer et de sa psychologie concrète, c'est-à-dire une critique du freudisme qui est contemporaine du freudisme. Je pense qu'il faut aller voir du côté de l'éthologie. Il me semble que l'éthologie nous a donné un certain nombre d'informations sans lesquelles on ne peut pas aujourd'hui penser une psyché, je veux bien même utiliser le mot inconscient. Je pense qu'il faut redéfinir l'inconscient. J'ai toujours pensé que l'inconscient freudien, c'était l'inconscient de Freud, et que si nous voulons penser un inconscient de manière nominaliste, c'est-à-dire subjective et personnelle, il nous faut effectivement repenser à partir de ce que la science nous a permis depuis. Donc, moi j'ai proposé une théorie de la psychanalyse en faisant savoir que je n'aurais pas l'audace de dire que j'ai la clinique avec moi, et j'ai invité à ce que les cliniciens puissent s'emparer de mon travail et dire, ici il y a une piste intéressante, ici c'est une impasse, ici ça peut se creuser, ici il faudrait préciser. C'est-à-dire que je reprends cette idée qu'il n'y aura pas d'évolution de la psychanalyse sans qu'un intellectuel collectif s'y mette à nouveau. Je pense que l'idée du grand homme, qu'aurait pu être Freud ou qu'aurait pu être Lacan, est une idée caduque. C'est terminé l'idée de cette époque, enfin c'est terminé l'époque où on pensait que Freud tout seul aurait pu inventer une science à lui tout seul, ou que Lacan à lui tout seul aurait pu inventer une science. Je pense qu'il faut aujourd'hui travailler avec les praticiens, que les théoriciens soient soucieux de la pratique et que les praticiens soient soucieux de la théorie, et qu'ensemble on puisse constituer une psychanalyse post-freudienne à laquelle je crois. Effettivamente sì, ho scritto un libro successivo a questo che si intitola Apostille al crepuscolo, nel quale sostengo, ribadisco, che la psicanalisi è il prodotto di un lavoro collettivo. Consiglio peraltro anche di rileggere coloro che Freud ha completamente distrutto, che invece hanno portato molto alla psicanalisi, come Adler, Reich, Ferenczi, Jung e molti altri. E poi analizzo anche l'aspetto filosofico, che è molto importante, che arricchisce molto questa disciplina. Penso ad esempio a Sartre, agli studi che sono stati fatti su Baudelaire, su Flaubert, penso a Politzer, alla sua critica che ha fatto a Freud, una critica contemporanea peraltro che ha fatto a Freud, o penso all'etiologia, una serie di studi che sono stati fatti proprio sull'inconscio. Io credo appunto che l'inconscio debba essere ridefinito, perché l'inconscio è, tra virgolette, inventato da Freud, è l'inconscio di Freud, secondo me. Bisogna invece riuscire ad arrivare ad un inconscio basato proprio sulla scienza, su studi scientifici. E quello che io propongo è una nuova teoria della psicanalisi. Naturalmente io non ho inventato nulla, io non mi propongo come l'inventore di questa nuova teoria della psicanalisi. La cosa che mi limito a fare è dare delle idee, dei suggerimenti, invitare i clinici, invitare gli esperti a analizzare le mie idee, magari dirmi cosa può funzionare, cosa non può funzionare, cosa debba essere precisato o migliorato. perché credo che non ci sarà mai un'evoluzione della psicanalisi senza un lavoro fatto in gruppo, senza un lavoro fatto insieme. Sono finiti i tempi in cui si pensava e si diceva che Freud era l'inventore della psicanalisi, Lacan aveva inventato questo, aveva inventato l'altro. Non c'è una persona che può inventare una cosa del genere. Ripeto, secondo me deve essere un lavoro fatto insieme, in collaborazione, per arrivare ad una psicanalisi post-freudiana a cui io fermamente credo. Adesso la parola al pubblico, compresi gli psicanalisti, se ci sono. Prego. Forse è meglio se venite qui. Vorrei porre due quesiti. Innanzitutto, mi chiedo se può presentarsi, se è un psicanalista. No, non sono uno psicanalista, sono un medico ginecologo, non c'entra niente con la psicanalisi. Dunque, volevo porre due quesiti. Innanzitutto ho visto che dopo lunghe ricerche lei è riuscito a risolvere uno dei tabù di Freud, cioè quanto fosse la sua parcella, e dopo complicati calcoli sulle valute che all'epoca erano quanto mai fluttuanti, c'erano monete leggere e monete pesanti, ha identificato un'ora di prestazione con 400 euro, una cifra che pare che la scandalizzi, e vorrei avere la conferma, visto che in Italia, in Francia un po' di meno, un luminare assoluto come poteva essere considerato Freud, 400 euro non mi sembrano una cifra particolarmente alta. Ma poi la cosa più importante che le volevo chiedere, lei nella prefazione, dunque, per 5 giorni a settimana per 25 anni, dunque, ma la cosa più importante, lei nella prefazione fa una serie di affermazioni molto potenti, molto possenti. Ne estrapolo soltanto una. Freud curava usando la psicanalisi, come tutti noi credevamo. Falso. Adoperava la cocaina. Tra l'altro, in altra parte del libro leggo addirittura non per inalazione, ma addirittura sottocutanea, per cui facendo correre rischi mortali. Chiunque sa che l'iniezione sottocutanea di cocaina può essere mortale. L'elettroterapia, la balneoterapia, l'ipnosi e l'uso del mostruoso psicroforo. Le sue tecniche terapeutiche erano una corte dei miracoli. In che misura, da quali fonti, queste terapie accessorie facevano parte dello studio di Freud? Grazie. Alors sur la première partie de votre question, oui, j'ai lu beaucoup de choses sur la biographie de Freud, et on nous donne des tarifs de l'époque en dollars, ou en monnaie autrichienne, ou en monnaie dévaluée, en monnaie d'avant-guerre, et on nous dit c'est beaucoup d'argent. C'est quoi beaucoup d'argent quand on nous dit par exemple 25 dollars? Et ça c'est l'époque. Donc je me suis renseigné auprès de banquiers. Parce que je ne sais pas bien compter, je voulais vraiment avoir une table de conversion qui soit sûre. Et de fait, parce que quand on découvre le chiffre, 450 euros la séance, Freud nous dit une séance tous les jours, sauf week-end et vacances. Et sur 3, 4 ou 5 ans. Faire le total, c'est une fortune, c'est considérable. Ça veut donc dire que Freud coûtait cher, certes, mais qu'en même temps, il en a fait un point de doctrine. On peut dire, après tout, je veux bien souscrire à votre proposition, c'est cher, mais il est génial, et après tout, si ça marchait, pourquoi pas. Simplement, outre que ça ne marche pas, il fait un point de doctrine du fait que la cure doit coûter très cher. Il nous dit que si on ne paie pas cher, on n'est pas soigné, on n'est pas guéri. il nous dit qu'il ne soigne pas les pauvres, parce que les pauvres ont un bénéfice à la maladie. Il en fait un point de doctrine, en nous expliquant que si on est pauvre et qu'on ne peut pas payer, alors on ne pourra pas être soigné. Donc ce sont des choses dites, ce qui fait que ce n'est pas seulement une anecdote. Les 450 euros d'aujourd'hui, c'est effectivement la possibilité pour Freud de dire qu'il ne veut soigner que les gens qui ont les moyens de payer 450 euros, c'est-à-dire la bourgeoisie, les aristocrates, les gens extrêmement aisés. Et quand on fait une sociologie des clients de Freud, on s'aperçoit effectivement qu'on a affaire à la couche la plus aisée de la bourgeoisie. Puis je vais répondre à la deuxième partie de votre question. Io ho letto moltissimi pezzi, naturalmente, ho letto molte biografie, nelle quali spesso si diceva che la terapia da Freud costava molto. Si parlava di dollari, si parlava di moneta austriaca e si diceva che costava molto. Ma io mi sono chiesto molto che cosa vuol dire, quant'è molto. Però mi sono informato, sono dovuto ricorrere anche a dei bancari che mi spiegassero, che mi dessero una tavola di conversione delle valute che fosse affidabile, perché davvero volevo capire quanto fosse questo molto, quanto costava una terapia da Freud. Ed sono arrivato quindi a questa cifra di 450 euro per ogni seduta, e ricordo che le sedute secondo lui dovevano essere quotidiane, salvo il sabato e la domenica e salvo il fine settimana. Una terapia durava dai 3 ai 5 anni, quindi questo già significa moltissimo denaro. Poi, per carità, io sono d'accordo con lei, lei mi può dire che vale la pena spendere molto denaro se comunque si guarisce. Il problema è che non si guariva neanche, e il problema è, secondo me, che lui ha fatto di questo costo così elevato un punto di dottrina. Cioè lui diceva che la terapia doveva essere costosa, perché se la persona non era in grado di pagare, se la terapia non era costosa, non poteva guarire. Lui stesso dice, per esempio, che non cura i poveri, che non curava i poveri. Perché? Perché i poveri non potevano pagare, quindi non si sarebbero impegnati, quindi non li avrebbe potuti guarire. 450 euro è, secondo me, una cifra non trascurabile. Una cifra che potevano pagare soltanto alcune persone, soltanto le classi più agiate della società, la borghesia, l'aristocrazia locale. E in effetti, se vediamo che la sua clientela era fatta proprio dello strato sociale più elevato. Per votre deuxième question, comment est-ce que j'ai procédé? Eh bien, je le disais tout à l'heure, en comparant les textes doctrinaux et la correspondance. On sait tout ça dans la correspondance. Quand il nous fait savoir qu'il travaille sur l'électrothérapie, mais qu'il ne gagne pas assez d'argent et qu'il arrête l'électrothérapie. Quand il utilise la balnéothérapie, mais que finalement il n'obtient aucun succès. Quand il utilise l'hypnose, mais qu'il n'y parvient pas. Il est allé voir Charcot, il est allé voir à Paris, il est allé voir Bernheim à Strasbourg, mais il n'arrive pas à hypnotiser, donc il laisse tomber. Il utilise la cocaïne, effectivement, il fait des erreurs de prescription, et plutôt que de guérir son ami, il tue son ami, Fletcher Marceau meurt. Une erreur de prescription faite par Freud. Dans sa bibliographie, il avait fait un texte qui lui disait qu'il avait guéri cet ami qu'il avait pourtant tué. Il a fait ensuite disparaître ce texte-là de sa biographie. Et si on lit les lettres à Fliss, ne serait-ce que les lettres à Fliss, on voit quelles sont les errances thérapeutiques de Freud. Sur la question du psychrophore, qui est effectivement un drôle d'instrument, qui est une sonde urétrale, qui permet donc d'élargir le mets urinaire et d'injecter de l'eau glacée pour calmer les ardeurs onanistes du patient. C'est-à-dire que Freud pense que quelqu'un qui se masturbe, on doit le calmer en lui mettant une sonde dans le sexe et en envoyant de l'eau glacée. C'est une lettre à Ludwig Binswanger de 1911, dans laquelle il fait mention de cette prescription du psychrophore. 1911, ça suppose qu'il y a un tas de textes qui ont été écrits avant par Freud, qui nous disent, ces textes, que la psychanalyse guérit, que la psychanalyse soigne, que la psychanalyse, c'est essentiellement un échange de paroles. Il dit, que se passe-t-il dans les textes techniques sur la psychanalyse? Que se passe-t-il dans un cabinet de psychanalystes? Freud dit, deux êtres qui se parlent, et rien d'autre. Il nous dit, se parler, ça guérit, et pendant qu'il nous dit ça, dans la correspondance, il écrit qu'il soigne quelqu'un, non pas par la parole, mais avec l'usage du psychrophore. Donc je dis, ou la psychanalyse guérit, et on n'a pas besoin du psychrophore, ou en 1911, on utilise encore le psychrophore, ça veut dire que la psychanalyse ne guérit pas. secondo si lascia tradurre per cortesia, se non mi scordo. Come ho proceduto per rispondere alla seconda parte della sua domanda? Ho proceduto confrontando i testi, tanto la dottrina e anche e soprattutto la corrispondenza. Nella corrispondenza volta Freud parlava dell'elettroterapia che aveva cominciato a utilizzare, però che poi ha abbandonato perché non gli fruttava economicamente abbastanza, della bagnoterapia che aveva cominciato a utilizzare ma che poi ha abbandonato perché ha visto che non funzionava, dell'ipnosi che ha cercato di imparare, è andato anche da Charcot a Parigi, però non riusciva e quindi l'ha abbandonato, ed anche della cocaina. La cocaina, ad esempio, lui stesso dice che l'ha utilizzata con un suo paziente, un suo amico, che però questa persona poi è morta per un errore di prescrizione. Cosa accade nella fattispecie? È accaduto che nella bibliografia che lui aveva scritto, che Freud aveva scritto inizialmente, aveva parlato di questo suo amico, di questo paziente curato con la cocaina, dicendo che lo aveva guarito. Peccato che questo signore in realtà fosse poi morto. Questo aspetto, questa storia della cocaina utilizzata con l'amico poi è scomparsa, non se ne ritrova traccia nella dottrina, se non però appunto nella corrispondenza. Nelle molte lettere scritte a Fliss, ad esempio, lui parla di questo strumento dello psicroforo. Che cos'è? Non è altro che una sonda uretrale che veniva appunto inserita per iniettare acqua ghiacciata. E che cosa serviva a questo? Serviva per calmare i bollori del paziente, quindi per limitare la tendenza all'onanismo del paziente. Allora, qui le cose sono due. O la psicanalisi funziona, come dice lui, con le parole, oppure no. Se nel 1911 utilizza questo fantomatico strumento dello psicroforo per curare, quindi con uno strumento materiale, una patologia, tra virgolette, vuol dire che la sua terapia fatta di parole non funziona, perché se lui durante tutta la sua vita ha detto che la psicanalisi è in realtà null'altro che uno scambio di parole tra il paziente e il terapista e che parlando il terapista riesce a guarire il paziente, allora perché nel 1911 utilizza ancora lo psicroforo che non è certamente una terapia fatta a base di parole? Bonsoir. Donc voilà, moi je suis française. Je ferai la question en italien si vous voulez après. Vous voulez ? Oui, italien. Et donc, vous voulez. Donc je suis française et je vis ici depuis une quinzaine d'années. Donc j'ai cette double culture. Et c'est vrai que bon, j'ai commencé à lire votre livre donc en français l'année dernière. Et j'ai suivi en fait les critiques sanglantes contre vous, comme personne, et contre votre livre. Et c'est vrai que j'étais frappée par justement les similitudes avec ce qui est arrivé aussi à Massimo Fagioli, le psychiatre dont vous avez déjà entendu parler, me semble, à la radio ce matin. Et parce que justement, quand il y a 40 ans, il a écrit Instinct de mort et connaissance, il s'est permis d'écrire ce livre, il a eu plus ou moins la même réaction, même un peu plus forte, parce qu'il a osé démonter la machine de la psychiatrie, de la psychanalyse, de Freud, exactement comme vous. Et j'en viens à ma question en fait. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition justement de Massimo Fagioli de refuser, de faire ce refus et de faire cette résistance, comme vous le faites avec votre livre, en se basant sur la théorie de la réalité humaine. Donc en partant de la recherche sur la nature humaine, qui dit en fait que l'être humain naît sain, avec une identité non rationnelle basée sur la vitalité et la fantaisie. Donc avec une théorie qui refuse cette culture, qui dit de libérer le ou les désirs, comme on l'utilise aussi dans la théorie, un certain plus tard avancé. Donc on parle de la théorie de la naissance, qui offre en revanche en fait, à l'être humain sa véritable réalité interne. Une identité de perception-intuition de l'autre qui amène à la dialectique homme-femme qui dit que ta réalisation est ma réalisation. Qu'est-ce que vous en pensez de ce style de refus avec une théorie psychiatrique, quoi, et scientifique? Je pose en italien. Niente, io in quanto francese che vive qua da vari anni, una quindicina di anni, quindi che ha una doppia cultura, sono rimasta insomma folgorata da questa similanza di reazioni tra quando è uscito il libro in Francia, quindi di questi addetti ai lavori psicanalisti contro il libro, contro la persona di Onfray, e con le reazioni all'istinto di morte e conoscenza 40 anni fa del professor Massimo Fagioli, che si era permesso di smontare pezzo per pezzo insomma la macchina della psicanalisi, della cultura freudiana. E quindi volevo sapere da Onfray cosa ne pensava di un rifiuto, una resistenza a questa cultura psicanalitica freudiana con una teoria della nascita che praticamente parla di un concetto di essere umano che nasce sano, che porta poi a una dialettica uomo-donna che quindi fatta di identità con vitalità e fantasia, che non è quindi la dialettica che porta, quindi la dialettica uomo-donna, e che quindi è uno scambio di realizzazione, cioè la mia realizzazione e la tua realizzazione. Alors, je suis arrivé hier à 16h et tout le monde me parle de ce personnage qui a l'air d'être un mythe. Non, c'est pas un mythe, c'est un homme réel. Et moi, je dis qu'il a l'air d'être, hein, et je ne connais pas. Donc, effectivement, je ne peux pas vous répondre sur ce sujet-là. Ce sur quoi je peux vous répondre, effectivement, c'est quelque chose de majeur, parce que Freud nous dit à la naissance, il y a une espèce de péché originel. Puisque la question du complexe d'Édipe, elle est héritée. Quand on arrive au monde, il y a des archétypes qui sont hérités sur le mode phylogénétique, nous dit Freud, et qui sont hérités de l'époque glaciaire. À l'époque glaciaire, il y a eu cette histoire de l'accumulation avec la mère, le meurtre du père, le banquier cannibale, la horde, la meute, et toutes ces choses-là. Freud nous dit que ça a eu lieu réellement, et ça s'est transmis phylogénétiquement jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que ce soir, tout le monde est porteur de cet héritage phylogénétique sur le principe de l'archétype. Extravagant. Oui, oui. Ça vaut absolument le péché originel des chrétiens. Donc, effectivement, il y a deux types de psychanalyse. Une qui vous dira, à la naissance, vous êtes affligé de ce péché originel qui est le complexe d'Édipe, ou une autre, c'est plutôt celle que je défends, qui vous dit, dès que vous arrivez au monde, effectivement, il y a dans l'inconscient ce qu'on y met, ce qui s'y trouvera ensuite. Mais l'inconscient est quelque chose qui se construit, ça n'est pas quelque chose qu'on hérite. Freud dit on hérite d'un inconscient avec tout le matériel qu'il y a dans l'inconscient, c'est-à-dire le premier viol de la première femme, le ressentiment de la femme parce qu'elle se souvient aujourd'hui de ce premier viol, et même si elle ne s'en souvient pas, son inconscient s'en souvient, et voilà pourquoi les femmes n'aiment pas les hommes, enfin toute la théorie de Freud, la théorie du pénis, la castration, ce genre de choses. Et puis ceux qui vous disent non, vous arrivez à la naissance, et votre inconscient est une espèce de psyché blanche sur laquelle rien n'est écrit encore, et on écrira ensuite quelque chose qui ne sera qu'un discours personnel. C'est-à-dire qu'il y a je ne sais combien de personnes ici, et il y a des inconscients à chaque fois subjectifs, hétérogènes. Je suis pour un inconscient nominal, nominaliste. Il y a d'inconscient d'un sujet. Freud nous fait savoir que l'inconscient, c'est toujours le même pour tout le monde. Toujours la même chose. Et toujours ces histoires de refoulement, etc., etc. Donc je pense que si on veut se sauver de la psychanalyse freudienne, au profit d'une psychanalyse non freudienne, il faut réhabiliter une psyché acquise, et non pas une psyché innée. Et vous avez raison, c'est là-dessus que les choses se constituent. La ligne de partage se constitue là-dessus. Io sono arrivata a Roma ieri alle 4 E vi assicuro che da ieri tutte le persone che mi hanno incontrato mi hanno parlato di questo professor Fagioli, che io non conoscevo. Mi ha quasi sembrato di sentir parlare di un mito. Non lo conoscevo, lo ammetto, quindi non le posso rispondere in questo senso, però vedo che è senza dubbio una persona molto conosciuta. Quello che sì le potrei rispondere forse è la cosa seguente. Allora, a mio parere, taluni ritengono che alla nascita, come sappiamo, ognuno di noi eredita quello che viene chiamato il peccato originale, quello che per Freud è il discorso del complesso di Edipo, che secondo lui è ereditato fin dalla notte dei tempi. Ognuno di noi possiede questo complesso di Edipo fin dalla nascita, con tutta la storia appunto che vi ho spiegato prima, della famosa copulazione iniziale con la madre, dell'assassinio del padre, della maleducazione del padre, l'orda primitiva, eccetera eccetera. Insomma, questo bagaglio, diciamo così, viene trasmesso filogeneticamente a tutti fino ai giorni nostri. È quello che il cristianesimo definisce come il peccato originale. Quindi, secondo me, bisogna in questo senso fare un passo avanti. La psicanalisi si divide forse qui in due rami: quello che sostiene, come appunto Freud, che fin dalla nascita si eredita questo complesso di Edipo e che quindi l'inconscio nasce già con questo bagaglio, e quelli che invece ritengono, come me peraltro, che l'inconscio è qualcosa che si costruisce, non è qualcosa che si eredita. Lui invece dice che l'inconscio si eredita e poi da lì appunto si costruisce tutto il resto, con le donne che tutte le donne in questa sala hanno subito la prima violenza, e quindi tutte le donne ricordano questa prima violenza, anche se non a livello conscio ma a livello inconscio, quindi tutte le donne hanno quello che poi vi definisce l'invidia del pene, e insomma una serie di altre caratteristiche che tutti quanti hanno in virtù di questo principio di trasmissione filogenetica di questo bagaglio. Ora, facendo un passo avanti, invece, si potrebbe sposare l'altra causa secondo cui l'inconscio è qualcosa di soggettivo, qualcosa che si costruisce, qualcosa di nominale, e che non necessariamente tutti nascano con lo stesso bagaglio. Quindi arrivare più a pensare che esiste una psiche acquisita e non una psiche innata. Io non ho dubbi che il professor Onfray abbia fatto uno studio accurato e onesto sul pensiero e l'opera di Freud, la quale presenta questo problema della verificabilità. Il problema è se questa verificabilità si debba fare con i criteri della scienza, della hard science, come dicono, cioè con i metodi della fisica, o se si debba fare con metodi diversi da escogitare, perché temo che non ci siano questo metodo per validare questo tipo di esplorazione. Temo che non ci sia ancora, o se c'è è soltanto abbozzato. Lei a pagina 28 scrive una cosa che è molto bella, perché è molto profonda. Dice: il freudismo è dunque una visione privata con pretese di universalità. Questa è una frase molto forte e possente. Questa è nell'introduzione, però adesso voglio fare un esercizio. Lei nella prefazione, si apre in questo libro, nella traduzione italiana, alla pagina 19, alla pagina 11. L'11 non è scritto, essendo la prima pagina, e lei dice che è passato il periodo molto duro in collegio, e l'anno decisivo della sua vita di adolescente, come della sua vita in generale, è quella del primo anno di liceo, e questa faccenda quindi nel 1973. Questo 1973 è come se l'aveste visto in 3D, perché per me il 1973 è una data decisiva nella mia biografia. Che è successo nel 1973 nella mia vita? Non è una cosa di poco conto. Per la prima volta ho attraversato la Manica in aereo e sono atterrato a Londra. Allora, per la prima volta nella Tate Gallery, e il nome della Tate Gallery è dato da un produttore di zucchero, e chi beve il caffè in Inghilterra c'è lo zucchero a cubetti, c'è scritto sopra Tate. Ho incontrato Picasso, ho visto per la prima volta Picasso dal vivo. Ho visto per la prima volta Turner, fare la domanda. E ho visto per la prima volta i pre-raffaeliti che in questo momento sono in mostra alla Galleria d'Arte Moderna di Roma. È un ologramma questo, per dire che è possibile attraverso un'analisi accurata della propria interiorità toccare problematiche di tipo universale, non solo universale, ma atemporale. Je pense que vous avez convaincu tout le monde et que je ne répondrai que sur la première partie de votre remarque sur la question, et ça me permettra aussi de répondre un peu à nouveau à la première question sur la question de la scientificité. Je pense par exemple qu'il y a une méthode extrêmement simple pour voir que la psychanalyse est une herméneutique privée et pas une science, et que si par exemple vous nous racontez un rêve et que vous racontez ce rêve à 10 psychanalystes, s'il y a vraiment une science de l'herméneutique, si on peut parler d'une science des rêves, ce que disait Freud, alors à ce moment-là, c'est pas compliqué, l'expérience elle est extrêmement simple. Vous avez 10 psychanalystes, vous racontez votre rêve, les psychanalystes vont chacun dans leur coin, et ils reviennent avec une interprétation qui devrait être la même. Ça devrait être la même interprétation. Si vraiment il y a une science des rêves, on doit avoir la même interprétation. Sauf que, à chaque fois que vous prenez un rêve, vous avez étonnamment la projection du psychanalyste. C'est-à-dire que quel que soit le rêve, chez Freud, c'est toujours une histoire édipienne. C'est toujours l'idée que le petit garçon a envie de coucher avec sa mère, a envie de tuer son père, et qu'il refoule cette idée-là, ou autre obsession, et qu'il est dans l'obsession d'onanisme, et qu'il refuse d'onanisme. C'est simple avec Freud, de toute façon, ou on se masturbe et on a tort, ou on se masturbe pas et on a tort aussi, et dans ces cas-là, on a toujours tort. Donc, on se masturbe, on est dans la culpabilité, on ne se masturbe pas, eh bien, on est dans le refoulement de cette culpabilité qu'on a, etc. Donc, on s'en sort jamais. Ce qui veut dire que si vraiment on était en présence d'une science, la totalité des psychanalystes donnerait une même interprétation d'un rêve. Or, à chaque fois, le rêve est, l'interprétation est différente. Chez Adler, par exemple, qui lui était obsédé par son rachitisme personnel, un rachitisme d'enfance, eh bien, il a construit une psychanalyse sur l'infériorité d'organes. Et lui pense que, psychanalyse plutôt nietzschéenne, que nous sommes porteurs d'une volonté de puissance, que cette volonté de puissance, elle est toujours contrariée, et que nous répondons toujours à une infériorité d'organes. Et puis vous prenez Jung, et puis vous prenez les autres, et chacun projette son obsession sur le rêve d'autrui en faisant une lecture subjective et personnelle, mais sûrement pas scientifique. Donc le jour où on dira, voilà, une psychanalyse dira, donnez-nous un rêve, et nous ferons 10 interprétations chacun dans notre coin, et les 10 interprétations coïncident totalement, alors on pourra parler de science. Autrement, je pense qu'on peut parler d'une bulle herméneutique privée. Penso che lei sia riuscito a convincere tutti quanti con quello che ci ha appena detto. Comunque posso rispondere soltanto a una parte, la prima parte della sua domanda, ovvero quella relativa alla scientificità. C'è un metodo, secondo me, molto semplice che ci consentirebbe di capire se la psicanalisi è effettivamente una scienza oppure se è quello che io definisco un'ermeneutica privata. Basta fare una prova, basta raccontare il proprio sogno a 10 psicanalisti diversi. Se esiste una scienza alla base di tutto questo, i 10 psicanalisti, dopo aver ascoltato il sogno, si separano, ci pensano su e poi teoricamente dovrebbero dare tutti la stessa interpretazione di questo sogno. Purtroppo però questo non accade. Se si racconta un sogno, lo psicanalista, quello che fa quando lo interpreta, è proiettare il proprio io nel sogno che gli viene raccontato. Per Freud tutti i sogni alla fine si risolvono con questo benedetto complesso di Edipo, questo bambino che vuole andare a letto con la mamma, ammazzare il papà, oppure se non c'entra con il complesso di Edipo c'entra comunque con l'onanismo. Anche qui, se ti masturbi vivi col senso di colpa, se non ti masturbi vivi con la rimozione, quindi che tu lo faccia o che non la faccia non va comunque bene. Quindi questo dimostra il fatto che non c'è una scienza di base. Se la scienza ci fosse, ripeto, l'interpretazione del sogno raccontata a 10 persone diverse sarebbe esattamente la stessa. Se pensiamo ad esempio a Adler, che soffriva lui stesso di un problema serio di rachitismo, vediamo che la sua psicanalisi si basa sul concetto di quello che lui ha definito l'inferiorità degli organi, ovvero lui dice che tutti quanti abbiamo una volontà di potenza che si basa però sullo scoglio di questa inferiorità degli organi. Però anche qui vediamo che è una proiezione della sua ossessione sul problema degli altri. Quindi credo che se un giorno, quando racconteremo il nostro sogno a 10 psicanalisti diversi, otterremo la stessa interpretazione, allora vorrà dire che ci sarà una scienza e che la psicanalisi non sarà più soltanto una storia di ermeneutica privata. Buonasera, sono Marta Di Baldi, io sono una psicologa analista junghiana e devo dire mai come stasera sono stata felice di essere junghiana. Perché ora naturalmente non possiamo dire le differenze, ma sicuramente è un modo diverso di pensare l'inconscio. Però riprendendo il tema della teoria che appunto poi diventa in qualche modo violenza sul paziente, io credo che ci sia in questo momento un concetto estremamente interessante e utile che permette proprio di ripensare anche la psicanalisi freudiana, e mi riferisco al concetto di maltrattamento teorico che è di Françoise Sironi, che probabilmente lei conosce. Il maltrattamento teorico è la possibilità di pensare criticamente le nostre teorie, cioè chiederci se quello che noi applichiamo ai pazienti in realtà è la nostra teoria nella quale facciamo rientrare i pazienti, oppure fare un discorso contrario, cioè proprio partendo dai nuovi pazienti che ci chiedono cose molto diverse e anche una teorizzazione diversa, rifondare una psicanalisi che tenga conto della nuova realtà e del nuovo psichismo. Quindi io credo che già nel concetto di maltrattamento teorico ci sia un tentativo molto serio di mettere in discussione una teoria altrimenti immobile. Questo per riprendere un po' il discorso, quindi io sono d'accordo con lei, credo che davvero dobbiamo lavorare per rifondare una teoria dinamica che si muova nel tempo e che risponda anche ai nuovi pazienti. Oui, ma votre intervention me ravit. Je pense que tant qu'on travaille sur le papier seulement, enfin je parle de moi pour le coup, quand on est simplement dans une logique théorique ou théorétique, comme on dit, c'est-à-dire une théorie pour la théorie, on rencontre assez rapidement ses propres limites. En revanche, il faut des praticiens qui, eux, aient l'habitude du discours du patient pour qu'on puisse échafauder quelque chose. Donc oui, bien sûr, je crois qu'il faut, partir de ce travail entre les théoriciens et les praticiens pour qu'on puisse permettre aux deux de s'élever mutuellement. Donc entièrement d'accord sur cette proposition. Je voudrais dire que quelles que soient les écoles psychanalytiques, il faut compter avec l'effet placebo. C'est-à-dire que depuis au moins les présocratiques, j'ai parlé dans le premier volume de ma contre-histoire de la philosophie, d'un contemporain de Platon qui écrit, qui s'appelle Antiphon d'Athènes, et Antiphon parlait à des gens, leur prenait de l'argent et les soignait. On a vraiment la matrice de la psychanalyse, c'est-à-dire que vous soignez les gens par la parole et vous faites payer le patient qui s'en trouve mieux. Donc l'idée que la parole guérisse, j'y crois, bien sûr. Mais on n'a pas besoin de mythes, on n'a pas besoin d'une espèce de prétendue science. Je pense qu'il faut être complètement dans l'empirisme. Et que si les gens viennent consulter, c'est qu'ils sont dans une douleur qui procède du fait qu'ils ne sont plus au centre d'eux-mêmes, ou qu'ils n'ont même jamais été au centre d'eux-mêmes. Donc il faut faire de telle sorte que chacun puisse retrouver ou trouver son centre à partir duquel il va organiser son passé, son présent, donc son futur. Moi, je crois beaucoup à la philosophie pour ça. Je pense que la philosophie a été pendant des siècles une thérapie, et que pendant toute l'Antiquité, la philosophie était une thérapie. Ce n'était pas un art de produire des discours, c'était un art de discourir pour produire une vie philosophique, et pour produire une vie meilleure. Donc je persiste à croire que la philosophie, pour moi, c'est ça. Pourquoi, comme Zizek ou comme Badou ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse dans la philosophie, c'est qu'elle puisse être praticable. Qu'elle puisse être praticable comme elle l'a été pendant 10 siècles, avant que le christianisme s'en empare, un peu moins de 10 siècles. Avant que le christianisme s'empare de la philosophie, c'est un art de construire sa vie. C'est un art d'avoir de comprendre ce que l'on est, où l'on est, quelle place on tient dans le cosmos, pour avoir un sens, pour pouvoir donner un sens à sa vie. Les gens qui consultent sont des gens qui trouvent la vie insensée. Et la vie est insensée si on ne lui donne pas de sens. La philosophie sert à donner un sens à la vie. Donc je suis pour le fait qu'on puisse, moi, évidemment travailler avec les psychanalystes qui exercent une profession, mais surtout considérer que le temps de la philosophie pour les philosophes est passé, et que le temps est venu de la philosophie pour le plus grand nombre. On a besoin d'une spiritualité laïque, on a besoin d'une pensée païenne, on a besoin d'une pensée post-chrétienne, et il y a eu des modèles de philosophie, qui plus est ici, moi j'adore Rome pour cette raison-là, ça a été mon premier voyage à l'étranger quand j'étais jeune homme, parce que Lucrèce m'a sauvé la vie, et je pense qu'on peut sauver la vie avec des mots, avec des paroles. Simplement, on n'a pas besoin de faire le détour par une mythologie scientifique, il suffit simplement de dire « construisez-vous », et vous verrez, quand on est construit, il n'y a aucune raison qu'il y ait des failles, des douleurs ou des souffrances, les souffrances qui font qu'on arrive un jour devant quelqu'un à qui on dira « apportez-moi mon salut ». Je pense qu'il y a toujours un danger. Moi, je suis sur des perspectives anarchistes, donc c'est plutôt ni Dieu ni maître. Donc voilà pourquoi je ne pense pas que il faut que je m'arrête. De toute façon, je pense que je peux arrêter là ma réponse. Chiedo scusa, ma questione Innanzitutto dirle, dottoressa, che sono molto contento di aver ascoltato quello che lei dice e sono assolutamente d'accordo con lei. Io sono una persona che lavora solo su concetti, sulla carta, perché appunto non mi occupo di quello di cui invece si occupa lei, e ritengo invece che se uno si limita a lavorare solo sulla carta, ben presto vede gli ostacoli apparire. Quindi per quello, come dicevo prima, è fondamentale che ci sia una collaborazione tra coloro che fanno la teoria e coloro che fanno la pratica, ovvero i medici che hanno contatto quotidiano con i pazienti. Soltanto così si può riuscire a costruire qualcosa di nuovo, soltanto così si può avere una evoluzione nella fattispecie della psicanalisi. Peraltro però mi permetto di aggiungere una cosa, che qualsiasi sia la scuola di psicanalisi, credo che non bisogna mai dimenticare un effetto importante, ovvero l'effetto placebo. Fin da sempre, fin dai presocratici, c'era ad esempio un contemporaneo di Platone, Antifono di Atene, che diceva che ascoltando le persone dietro remunerazione riusciva a curarle, le persone stavano meglio. Quindi la cura attraverso la parola è qualcosa di antichissimo, qualcosa che si è fatto da sempre. Io sono convinto del fatto che effettivamente la parola ha il potere di guarire. Non c'è però bisogno per far questo di creare un mito, abbiamo invece bisogno di creare una disciplina del tutto empirica. I pazienti che stanno male vengono da voi perché non riescono più a collocarsi, invece credo che la persona debba trovare il proprio fulcro per organizzare il proprio passato, il proprio presente e il proprio futuro. In questo senso si inserisce la filosofia. La filosofia è sempre stata importante per questo, perché la filosofia ha parlato per molti secoli, fino diciamo, all'avvento del cristianesimo, la filosofia era utilizzata proprio quasi come una terapia, ovvero era qualcosa che spiegava la vita, che migliorava la vita. Per questo non sono d'accordo con Badiou o con Žižek o con molti altri, perché la filosofia deve essere utile alla vita dell'uomo, perché appunto lo è stata fino ad un certo periodo. Quindi io credo che a suo modo la filosofia sia comunque un'arte da riscoprire, da sfruttare per costruire la vita dell'uomo, per aiutare l'uomo a capire dove si colloca, dov'è, chi è, quindi per dare un senso alla vita. I pazienti in difficoltà sono i pazienti che spesse volte hanno perduto questo senso, questa di- direzione nella loro vita e bisogna cercare di aiutarli a ritrovarlo, e la filosofia questo lo può fare. Credo che sia ormai finito il tempo in cui la filosofia era qualcosa solo per i filosofi. La filosofia è qualcosa per tutti, la filosofia è un modello che ci deve aiutare ad andare avanti. Io amo Roma, adoro Roma, una città che ho scoperto da giovane, perché Lucrezia mi ha salvato la vita, perché la filosofia in questo senso mi ha salvato la vita. Quindi credo che questo sia uno strumento che si deve poter sfruttare per aiutare le persone a vivere la vita con una difficoltà. Io ringrazio Michel Onfray, ringrazio anche per la traduzione e ringrazio tutti voi per gli interventi e per aver partecipato. Trovate il libro qui in libreria. Ringrazio mica per quello che ho fatto prima, Simone Regazzoni, che ha presentato egregiamente il libro ed è anche uno dei brillanti italiani della sua generazione. Ovviamente Michel Onfray è tantissimo per aver accettato il nostro invito a venire. E Francesca Sonia, ciao ragazzi.